notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cerchiamo di convincere Dio di essere buono come noi siamo buoni perdonando, al rovescio. Ma parole, no? Come si cantava quella bella canzone, parole, parole, parole, no? Credo che Mina le cantava, no? E parole. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la versione pop di Papa Bergoglio, pop proprio in senso stretto, di canzone pop popolare italiana. Mina conosce addirittura il Papa venuto dalla fine del mondo, si ricorda la canzone di Mina. Evidentemente il grande successo di Mina è anche un'attenzione di Papa Francesco evidentemente a certi fenomeni, per l'appunto, popolari. Noi faremo attenzione questa sera, come al solito, un sacco di notizie, sono sempre tante le cose da raccontare qui a Effetto Notte, lo sapete, vi faccio un sunto all'inizio della giornata e poi approfondisco con gli ospiti i vari temi. Beh, stasera parleremo naturalmente di nuovo di immigrazione, perché ogni giorno ci sono degli sviluppi nuovi. Adesso è l'Austria che chiude, che blocca i treni perché c'è un'emergenza immigrazione che arriva da Budapest. Ci sono degli arrivi record dall'Ungheria e poi ci sono gli Stati Uniti che di nuovo si fanno avanti e dicono dal 2016 potremo accogliere almeno 10.000 siriani. Poi torna a far discutere a due giorni di distanza il caso di Giovanni Scattone, sapete, l'uomo, l'insegnante che ha scontato 5 anni e 4 mesi per l'omicidio di Marta Russo nel 1997, gli era stata assegnata una cattedra a Roma in una scuola superiore per insegnare psicologia e scienze d'educazione. Questa cosa aveva suscitato molte polemiche, prima tra tutti la mamma di Marta Russo che aveva detto una cosa assurda, e lui oggi ha deciso di rinunciare alla cattedra. Questo può essere anche il tema che voi potreste commentare con le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Avete già commentata martedì la notizia di allora, quando sembrava che dovesse appunto insegnare queste materie, e poi oggi invece questa decisione. Che ne pensate? È stata la scelta giusta, la decisione giusta da parte di Scattone? Poi ci concentreremo anche sulla scoperta di una nuova specie umana, non contemporanea, che farebbe parte dei nostri antenati. Non si capisce più niente con tutti questi antenati che abbiamo, varie specie umane, non esiste una sola evidentemente. Durante l'evoluzione ci sono stati vari filoni, parleremo di questo con un paleontologo, e poi ci collegheremo anche con Venezia per sapere quali sono i film presentati oggi. Già ormai il Toto Leone si fa sempre più incalzante. Voi allora con le vostre opinioni al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, andiamo con le notizie del giorno. L'emergenza migranti, afflusso record di profughi, l'Austria blocca i treni dall'Ungheria, domani vertice con i paesi dell'est, gli Stati Uniti pronti ad accogliere 10.000 siriani nel 2016. Poi Siria, forze russe presenti nel paese, forze militari, non siamo qui per combattere, precisano da Mosca, ma gli Stati Uniti sono preoccupati. Marta Russo Scattone rinuncia alla cattedra che gli era stata assegnata con la buona scuola. Non sono sereno, dice, stasera a Effetto Notte ci sarà il suo avvocato. Il caso Cucchi, un carabiniere indagato per la morte del giovane geometra. Tossicodipendenze, secondo una ricerca presentata in Parlamento, sono quasi 4 milioni gli italiani che consumano droga. Scoperta in Sudafrica, trovati i resti di una specie umane sconosciuta, l'uomo Naledi. Lutto nel cinema, addio Franco Interlenghi, è morto 84 anni il protagonista del neorealismo, da Sciuscià e Vitelloni, lavorò con Visconti e Antonioni. Sport, Italia travolta dalla Serbia agli europei di basket, ma nel fine settimana si giocherà gli ottavi. Iniziamo come sempre dagli sviluppi quindi dell'emergenza migranti, con l'afflusso record di profughi che ha spinto l'Austria a bloccare i treni dall'Ungheria. Domani, vi dicevo, ci sarà questo vertice con i paesi dell'est, quelli più recalcitranti ad accettare delle quote europee di migranti. Poi la Danimarca intanto riapre le frontiere, gli Stati Uniti fanno sapere appunto che sono pronte ad accogliere 10.000 siriani. Poi torneremo a parlarne in modo più approfondito nello spazio europeo. Nel frattempo, tra i tanti fronti caldi, c'è quello del confine tra Siria e Turchia, dove continuano gli scontri tra guerriglieri curdi ed esercito di Ankara. Secondo i media turchi, dal 22 luglio sono stati uccisi oltre 1000 componenti del PKK, che è il partito del Kurdistan illegale in Turchia. Molto difficile la situazione a Cizre, città al confine sudorientale con la Siria, dove da venerdì è in vigore il coprifuoco, e oggi il governo di Erdogan, del presidente turco, ha deciso che non permetterà alla delegazione del partito filo curdo HDP di entrare nella città. E in Siria fa discutere il crescente impegno militare russo. Il ministro degli esteri russo Lavrov dice che Mosca sosterrà Damasco per evitare uno scenario libico. Non siamo qui per combattere, precisa. Poi però cercheremo di capire più tardi, con effetto notte, quali siano le reali intenzioni, i motivi di questa presenza rafforzata russa in Siria. E siamo ancora all'estero, in Giappone, che è stato colpito da un devastante tifone. Il Giappone rivive oggi sensazioni simili a quelle provate 4 anni e mezzo fa, ai tempi dello tsunami. Le piogge torrenziali portate dal tifone tropicale Etau hanno provocato vaste inondazioni e frane, costringendo all'evacuazione circa 100.000 persone, mentre ad altre 800.000 è stato dato consiglio di lasciare le proprie case. Il fiume Kikugawa ha rotto gli argini e sommerso la cittadina di Gioso, a soli 50 km a nord-est di Tokyo. Immediato l'intervento dei mezzi militari e della protezione civile, con spettacolari salvataggi con elicotteri di persone intrappolate ai piani alti di case fragili in pericolo di essere spazzate via dalle acque. Si segnala un buon numero di dispersi e di feriti, ma il peggio è stato evitato perché l'allarme è stato sufficientemente preventivo. Il bilancio pare però destinato ad aggravarsi per un maltempo che durerà almeno anche domani, e non mancano preoccupazioni per la possibilità che l'acqua che passa nell'area della centrale nucleare di Fukushima Daiichi si contamini con alti livelli di radioattività prima di finire in mare. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Spostiamoci adesso sulle notizie italiane. Parliamo del sindaco di Roma Marino, che questa sera alla trasmissione 8 e mezzo con Lili Gruber si è difeso. A proposito, vi ricordate di tutto quel dibattito accesissimo che è durato fino a quando è tornato a Roma, praticamente sulle sue vacanze negli Stati Uniti? Dice: dopo le minacce di morte sono andato negli Stati Uniti per stare qualche giorno senza scorta. Sentiamo. Io mi trovavo negli Stati Uniti, voglio subito dire qualcosa a cui tengo. Per motivi al di fuori della mia volontà, perché negli ultimi mesi ho ricevuto diverse minacce di morte che sono dirette con lettere scritte a me, a mia moglie e a mia figlia, e diverse volte buste con le pallottole, io che ho iniziato il mio periodo, lei lo sa bene, da sindaco andando in bicicletta, adesso devo muovermi con 3 macchine e 6 uomini di scorta. Io davvero volevo 14 giorni con mia moglie e mia figlia senza girare con le persone armate, che ringrazio perché sono assolutamente professionali, ma penso che se ho un difetto, io ho iniziato a lavorare come chirurgo in questa città, e al Gemelli gli infermieri dicevano: Marino, non ce l'hai una casa, perché stavo sempre al lavoro 7 giorni a settimana. Questo è il sindaco Marino. Passiamo al caso di Marta Russo, che in realtà è diventato il caso scattone, che ha scontato 5 anni e 4 mesi per l'omicidio della studentessa della Sapienza avvenuto nel 1997. Il caso scattone, dopo le polemiche di questi giorni per la cattedra appunto assegnata a Giovanni Scattone in una scuola superiore romana dove doveva insegnare psicologia e scienze dell'educazione, e oggi il quasi cinquantenne ex ricercatore universitario ha rinunciato alla cattedra, ha detto: non sono sereno. Più tardi ne parleremo col suo avvocato, e voi intanto potete continuare a scrivere i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte su questo tema, se ha fatto la scelta giusta secondo voi o su altre notizie strettamente legate alla giornata. Parliamo per esempio di lavoro, perché c'è un boom di contratti fissi, contratti di lavoro a tempo indeterminato continuano a crescere anche grazie agli sgravi contributivi previsti nella legge di stabilità, ma si rischia che la copertura prevista per questo intervento, questi sgravi, sia esigua e che il buco rispetto allo stanziamento superi i 3 miliardi. La cifra del buco è stata calcolata dai consulenti del lavoro, che sottolineano come le risorse stanziate in stabilità, cioè 1,8 miliardi, siano già esaurite ad agosto. Per la cronaca, non è morto, qualcuno dice, del cinghiale omicida, meglio tacere. Ve lo dico che l'uomo che è stato trovato morto vicino alla provincia di Frosinone, oggi a Ferentino, non è morto per un attacco di un cinghiale, come ipotizzato in un primo tempo. L'uomo di 65 anni pare sia stato ferito da delle pallottole che gli hanno reciso la aorta femorale. La morte è stata quindi causata da un incidente di caccia e si indaga ora in questa direzione. E poi c'è anche un bambino di 8 anni e due ragazze di 14 e 17 anni tra le persone costrette a lavorare in nero in un laboratorio nel Varesotto per assemblare parti di pelletterie di prodotti griffati. Lo ha trovato la Guardia di Finanza di Varese attraverso una serie di controlli in azienda, negozi della stagione estiva. I lavoratori irregolari sono stati scoperti, sono in tutto 22, tra cui 8 stranieri, e pare che non sia un'azienda cinese questa. Parliamo anche di tossicodipendenze, perché secondo i dati contenuti nell'ultima relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze messa a punto dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, circa il 10% degli italiani fra i 15 e i 64 anni, cioè quasi 4 milioni, ha assunto almeno una volta nell'ultimo anno una sostanza illegale. Cannabis e cocaina sono le droghe più diffuse. E poi la scoperta che è avvenuta in Sudafrica, questa specie umana sconosciuta, l'Homo naledi, un aspetto ricostruito con 1500 resti fossili appartenenti a 15 individui, piccolo di statura, cervello simile allo scimpanzé, dita ricurve per arrampicarsi, camminava eretto. Più tardi, per effetto notte, cercheremo di scoprire qualcosa di più sulle sue caratteristiche. E c'è un lutto nel cinema. 84 anni è morto Franco Interlenghi, protagonista del neorealismo da Sciuscià, che interpretò all'età di 15 anni ai Vitelloni, lavorò con Visconti, Fellini e Antonioni. E poi, per quanto riguarda il cinema, ci collegheremo più tardi con Venezia. Intanto parliamo di cultura. A Milano è stato presentato il programma della prossima stagione del Museo delle Culture, 50.000 visitatori nei primi 6 mesi di vita. Non solo uno spazio espositivo, ma una piattaforma di dialogo e incontro delle culture. È questo che vuole essere il MUDEC di Milano, che il 28 ottobre darà il via ufficiale al suo programma, proprio negli ultimi giorni di Expo. È un messaggio di continuità, dice il sindaco milanese Giuliano Pisapia. Expo ha raccolto tutti i popoli del mondo. Il Museo delle Culture vuole raccogliere e far dialogare le varie culture del mondo, attraverso la bellezza, attraverso l'arte. Cuore del museo, la collezione permanente, circa 8.000 opere e oggetti da tutti i continenti, che Milano ha raccolto nel corso dei secoli. Poi le grandi mostre temporanee, tra cui Gauguin e Barbie, la bambola più conosciuta al mondo. Ma anche laboratori per bambini, corsi di formazione e altro ancora. L'assessore alla cultura, Filippo Del Corno. È la prima volta, credo, nella storia che un museo pubblico apre uno spazio dedicato a un'attività come quella del Forum Città Mondo, che testimonia la presenza delle tante comunità che abitano Milano e che avranno quindi una straordinaria occasione per raccontare la propria cultura di origine, di provenienza, e aprire luoghi e momenti di dibattito e di conoscenza reciproca. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso siamo allo sport, con il basket. La pallacanestro, l'Italia è stata sconfitta dopo due grandi vittorie, è stata sconfitta dalla Serbia con un netto 101-82 nell'ultima gara del girone di qualificazione agli Europei di Berlino. Azzurri comunque qualificati agli ottavi di finale, che aspettano le gare di stasera, quindi gli azzurri, in particolare Francia e Israele, che è iniziata da poco, per conoscere quale sarà la prossima avversaria. Assente Belinelli, è stato Alessandro Gentili il top scorer azzurro con 19 punti, e lo ha intervistato Carmelo Presti Simone. Posso dire che siamo scesi in campo con la voglia di dare il massimo e di provare a vincerla. Poi, chiaro, mancavano giocatori importanti, alcuni sono stati gestiti, però il nostro obiettivo era quello di cercare di giocare fino in fondo, e la Serbia penso che oggi ci sia stata superiore, quindi complimenti a loro. Per essere competitivi a livello delle big, che cosa occorre? Ci manca un po' di, tra virgolette, vissuto insieme. Siamo, diciamo, alla prima esperienza vera insieme. È vero che ci prepariamo da un mese e mezzo, ma non è facile cercare di trovare l'alchimia giusta in così poco tempo. Sicuramente ci manca a volte quel pizzico di aggressività in più, le palle vaganti, la difesa, cose che quando riusciamo a mettere in campo poi veramente possiamo dar fastidio a tutti. E per il ciclismo, la Vuelta in Spagna, che si conclude domenica. L'irlandese Roca ha vinto la 18ª tappa, battendo in una volata a due lo spagnolo Zubeldia. L'olandese Tom Dumoulin, giunto con il gruppo insieme con Fabio Aru, conserva la maglia rossa con 3 secondi di vantaggio sull'italiano dell'Astana, che anche oggi ha dato battaglia sulle salite. Domani arrivo ad Avila dopo 186 chilometri. Bene, ora, prima di aggiornare chi sta percorrendo appunto chilometri, chi sta guidando, chi sta viaggiando, vi leggo giusto qualche messaggio di quelli che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per i messaggi. A proposito delle notizie del giorno, io vi ho chiesto di commentare semmai la scelta che ha fatto Giovanni Scattone, ne parleremo più tardi con il suo avvocato, però c'è un ascoltatore che torna sulla questione immigrazione, che affronteremo tra poco. Dice: 20 anni fa I pochi africani a Genova si integravano parlando genovese, tifando Genoa o Doria. Oggi saranno oltre 10.000, stan tra loro e parlano solo africano. A proposito di integrazione, dice questo ascoltatore. Poi Sergio da Milano: perché sono tutti intenzionati a ospitare solo siriani e no magrebini, somali ed eritrei come fa l'Italia? Secondo me perché c'è una notevole e sostanziale differenza culturale. Poi Emma dice: rinuncia alla cattedra Scattone, forse dice la seconda volta, mi pare che sia anche più della seconda volta, poi ne parleremo, dice, però come persona risulta idoneo e merita di occupare la cattedra. Poi gli altri messaggi e dopo voi continuate con le vostre opinioni, questione di pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Restiamo sulle notizie e cominciamo però a approfondire i temi più importanti di oggi, alcuni dei temi tra l'altro, quelli più importanti. Le notizie ve le riracconto, se avete acceso la radio in questo momento ricordatevi che Effetto Notte inizia sempre puntualmente alle 21, più o meno puntualmente, due minuti più, due minuti meno, però queste sono le notizie principali di questa giornata. Emergenza migranti con l'Austria che blocca i treni dall'Ungheria, domani ci sarà il vertice dei paesi dell'est Europa, Obama intanto apre a 10.000 siriani. Mosca interviene con soldati e armi in Siria in supporto ad Assad, dice il ministro degli esteri russo, non combattiamo. Israele però insiste, le truppe russe sono già in Siria. Jobs Act, in 7 mesi 286.000 posti in più. E poi Marino, che il sindaco di Roma, che negli Stati Uniti dice, dopo minacce di morte sono andato lì a fare le vacanze per vivere senza scorta, si è difeso questa sera alla trasmissione 8:30. Il caso di Marta Russo, Scattone, Giovanni Scattone rinuncia alla cattedra dopo le polemiche di questi ultimi 2 giorni, non sono sereno, dice. E poi per il caso Cucchi è indagato un carabiniere per falsa testimonianza. Scoperto in Africa l'Homo Naledi, nuovo antenato dell'uomo in una caverna appunto del Sudafrica, poi ne parleremo. E poi addio a Franco Interlenghi, il protagonista del neorealismo da Sciuscià e Vitelloni, lavorò con Fellini, con Visconti e con Antonioni. E adesso parleremo di Europa, di immigrazione, di cosa sta succedendo. Vi dicevo, vi ho un po' riassunto all'inizio per l'appunto che ci sono delle novità, delle aperture e delle chiusure. Ogni giorno c'è una chiusura, mentre la Danimarca ha aperto di nuovo le frontiere, ha sbloccato i treni, adesso è l'Austria che si preoccupa per questo afflusso record di migranti che arriva dall'Ungheria. Nel frattempo domani ci sarà un vertice dei paesi dell'est, che sono quelli più riluttanti, diciamo, ad accettare questa proposta della Commissione europea di creare, insomma, delle quote obbligatorie, che ognuno accolga una quota di migranti nel proprio paese, e gli Stati Uniti che dicono siamo pronti ad accogliere 10.000 siriani. Europa 24. E ne parliamo con Sergio Nava. Caro Sergio, ciao. Ciao. Quindi questo è un po', diciamo, sinteticamente il quadro. Alfano, ministro dell'interno italiano, ha detto: sono soddisfatto per questa virata in Europa, che in effetti, a parte alcune chiusure, zone di confine che stiamo raccontando, anche le rotte difficili dei migranti, diciamo che una svolta mi pare ci sia stata. Ci sono vari vertici, si attende con molta ansia quello del 14 settembre, dove bisognerà appunto approvare poi questa proposta delle quote obbligatorie. A che punto siamo? Siamo al punto, appunto, l'hai sintetizzato bene tu, il nodo di svolta sarà il vertice lunedì dei ministri dell'interno. Anche per questo domani ci sarà questo incontro fra il blocco dell'est, tra cui l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Slovacchia, la Germania, che ormai ha assunto un ruolo di leadership totale anche in questo, diciamo, anche in questa crisi ormai definita a Bruxelles come la nuova Grecia, potremmo dire. L'Europa ormai passa da una crisi all'altra, volente o nolente. Domani ci sarà questo incontro anche con Lussemburgo, che ha la presidenza di turno, per appianare la strada in vista appunto del vertice lunedì. L'idea, oggi sono uscite tra l'altro delle bozze della presidenza lussemburghese in vista del vertice, l'idea è quella di partire addirittura già da mercoledì con la redistribuzione dei profughi. Di almeno 20.000, mi sembra 20.000 o 40.000. 40.000, poi erano più o meno quelli decisi a luglio, tra mille difficoltà. Comunque già si partirebbe dopo soli 2 giorni. È chiaro che la posizione dei paesi dell'est, la Polonia è sembrata aprire un po' oggi. Sì, oggi. L'Ungheria continua a fare un po' l'eccezione, però ricordiamo anche l'Ungheria alla fine è quella che riverserebbe, come l'Italia e la Grecia, i migranti, i profughi negli altri paesi, proprio in base allo schema di ricollocazione. Bisogna vedere cosa farà la Slovacchia, la Repubblica Ceca, cosa faranno anche la Bulgaria e la Romania, che potrebbero dirsi disponibili ad accogliere profughi in cambio dell'ingresso nello spazio Schengen. È una partita molto complessa e non c'è solo la ricollocazione dei profughi, ci sono anche altre parti del piano Juncker, come ad esempio il rimpatrio di chi non ha diritto all'asilo. Insomma, è una partita molto complessa. Lunedì sarà lo snodo, poi dovrà passare la palla ai leader europei a ottobre o prima di ottobre, poi ricordiamo che a novembre ci sarà un vertice tra i leader europei e i leader africani a Malta, alla Valletta, dove non si parlerà solo di profughi o rimpatri, ma anche di cooperazione per fare in modo che in alcuni paesi non ci siano più le condizioni per dover scappare, per fuggire. Sergio, tra l'altro, in questa bozza che si discuterà lunedì, abbiamo detto il 14 settembre, mi pare che si parli anche di centri di accoglienza nei vari paesi cofinanziati dall'Unione Europea, quindi con budget europei. Ma questo allora soldi, almeno è qualcosa su cui si insiste anche Angela Merkel da diverso tempo. L'idea è quella, poiché il problema alla fine è legato non solo al fatto che insomma, i paesi del Sud Europa tradizionalmente sono stati sempre più esposti, hanno avuto poca solidarietà dagli altri paesi, eccetto Germania e Svezia, che hanno, ricordiamo, storicamente sempre accolto grosse percentuali di rifugiati. C'era anche il problema, lo sappiamo bene, che i paesi come l'Italia, la Grecia e anche la Spagna, proprio a causa dei regolamenti di Dublino, non hanno applicato fino in fondo sempre tutte le regole, hanno spesso chiuso un occhio, per cui non hanno registrato tutti i migranti. Allora l'idea è: ok, ricollochiamo dei profughi, ricollochiamo dei richiedenti asilo, in cambio però facciamo in modo di avere più o meno la quasi totale certezza che chi arriva in questi paesi venga effettivamente registrato così come dovrebbe essere. In realtà ci sono dei piccoli embrioni di questi hotspot, anche se non sono veramente così. Uno ad esempio a Catania, ancora molti non lo sanno, ma a Catania ci sono già delle agenzie europee come Frontex, come l'Agenzia Europea per i richiedenti asilo, come l'Europol, che stanno già collaborando con le autorità italiane. Però l'idea è di strutturare veri e propri centri dove l'Europa abbia un ruolo attivo e si faccia in modo di avere la garanzia che chi arriva venga effettivamente registrato. Questa è un'idea su cui Angela Merkel punta molto. A proposito di Angela Merkel, per chiudere, per confermare ulteriormente questo ruolo di leader anche in questa crisi, se vogliamo, da un punto di vista di comunicazione così iconografico, questo selfie, che non so se l'hai visto, con i migranti a Berlino, di Angela Merkel che si fa fare il selfie con loro, diciamo che è emblematico di questa svolta, di questa svolta, ulteriore leadership. Angela Merkel sicuramente sta giocando un grande ruolo di leadership in Europa, resta un animale politico difficile da decifrare. Forse la migliore definizione che è stata data di lei che è una leader che tende spesso a temporeggiare, tende spesso a aspettare, però a un certo punto ha delle svolte, ha il fiuto di capire quando occorre dare la svolta. A volte rischia di arrivare quasi troppo tardi, ma nel caso della Grecia alla fine ha optato per tenere la Grecia in Europa e ha scommesso per evitare che la Grecia uscisse all'euro, e c'è riuscita. Sui migranti ha avuto un fiuto molto più rapido, potremmo dire un fiuto politico molto più rapido, e ha dato una svolta molto forte anche al suo paese, e bisogna dire che effettivamente sta dando una grandissima prova di leadership. Grazie Sergio. Grazie Nava. A voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. E naturalmente legato fortemente a doppio filo al tema dell'immigrazione c'è la questione siriana. Diceva prima un ascoltatore: perché tutti vogliono solo i siriani e non i magrebini, eccetera? Perché abbiamo visto effettivamente, lo si diceva anche nei giorni scorsi quando si parlava dei profughi siriani soprattutto bloccati in Ungheria, Budapest, che è un po' la classe dirigente, anche il ceto medio che sta lasciando la Siria, e quindi evidentemente anche la Germania proprio del fiuto politico che diceva prima Sergio Nava della Merkel, ha capito che sono persone che poi si possono anche forse più facilmente integrare e anche spendere la loro formazione poi negli altri paesi. La Siria adesso è ancora al centro perché, oltre che continua questa terribile guerra, perché la Russia ha ammesso che sta inviando delle armi insieme a degli aiuti umanitari in Siria. C'è la preoccupazione internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, che dicono ma qui attenzione che non ci sia un altro intervento armato, ma il ministro degli esteri Lavrov russo oggi ha detto no, non siamo qui per combattere, semplicemente noi ci siamo da sempre più o meno in Siria, stiamo semplicemente portando così del sostegno ad Assad. Però qual è il vero motivo di questa presenza rafforzata? Ne parliamo con Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Magri, buonasera. Buonasera a voi. Ci ricorda innanzitutto da dove è partita questa crisi siriana? Beh, la crisi siriana è una coda delle primavere arabe che abbiamo visto in altri paesi, dopo aver toccato la Tunisia, la Libia, l'Egitto, anche in Siria in parte questo processo di proteste, il regime è più forte, molto più forte che in altri paesi, ma lentamente nell'opposizione che vapora al sole subentrano per combattere questo regime forze terroristiche, prima Al-Qaeda, poi lo Stato Islamico. E arriviamo alla situazione di oggi in cui noi non siamo intervenuti militarmente, l'ipotesi del 2013, e oggi il paese è totalmente allo sfascio. Assad è rintanato nel piccolo territorio ormai rimasto controllato dagli Alawiti, la setta a cui appartiene, la setta sciita a cui appartiene, il resto del territorio un po' è diventato curdo e l'altra parte è nelle mani dello Stato Islamico. Questa è la situazione di oggi. Quindi la Russia dice in realtà noi ci siamo da tempo qui in Siria, nulla di strano la nostra presenza? Bah, sì e no, nel senso che è vero che la Russia c'è da tempo, quando si parlava ancora 2 o 3 anni fa dei motivi per cui Mosca difendeva Assad, si portava come testimonianza il fatto che la Russia ha un suo porto all'interno del territorio siriano, il porto di Taus, e ha sempre sostenuto militarmente vendendo armi il regime di Assad. Questo è un dato acquisito. L'elemento nuovo che Mosca tende a minimizzare e che altri tendono forse un po' a esasperare è che c'è la conferma di presenze militari, consiglieri militari, ma in numero significativo, anche oggi la dichiarazione israeliana in tal senso, e questo è un elemento nuovo, soprattutto se avviene detto, comunicato, confermato proprio nel momento in cui l'Occidente improvvisamente per l'immigrazione si è riaccorto della Siria e si sta pensando, francesi, inglesi, non solo, di intensificare i raid aerei contro lo Stato Islamico. Qui il punto su cui dobbiamo riflettere sulla carta, sia Mosca che gli americani e gli altri membri della coalizione hanno come obiettivo quello di distruggere lo Stato Islamico. Ma dove si differenziano americani e russi è sul cosa succede per il futuro della Siria. Il futuro della Siria per gli americani è senza Assad, per Mosca è con Assad. E poiché Assad vacilla, veniamo all'operazione di questi giorni ai consiglieri militari, la sensazione è che Mosca possa tentare un'operazione tipo quella dell'Ucraina, cioè posizionarsi sul territorio, come ha fatto nel sud dell'Ucraina, per diventare un attore imprescindibile su qualsiasi decisione sul futuro della Siria, perché si è lì. Ma Assad accetta questo proprio per debolezza in questo momento, magari? Assad in questo momento è sostenuto da Hezbollah, un po' dagli iraniani, ma c'è un punto di domanda sugli iraniani post accordo nucleare e dalla Russia, quindi è chiaramente in una posizione debolissima e con l'ossigeno attaccato per sopravvivere e rimanere al potere, e quindi accetta questo. Il problema è come possono reagire gli americani se questa presenza andasse al di là dei consiglieri e diventasse una presenza militare, perché per gli americani non considerano la Siria come l'Ucraina. Sull'Ucraina c'è stata già una reazione durissima americana, ma era tutto sommato una zona di influenza russa. Il Medio Oriente è tutt'altra cosa. E se ciò avvenisse, cioè l'accendersi di un confronto forte fra russi e americani attorno a questa vicenda, non gioverebbe sicuramente questo alla risoluzione della crisi della Siria, ma neanche alla risoluzione di altre crisi della regione. Pensiamo alla Libia, dove il ruolo dei russi è fondamentale, e creare nuovi steccati, come sembra, non ci aiuterebbe assolutamente. Quindi occhi ulteriormente puntati sulla Siria. Grazie intanto Paolo Magri. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa di ricreazione. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666, dove leggo questo messaggio di Emma che dice: a questo punto consiglierei a Scattone di lasciare l'Italia per riprendersi il diritto di vita e la propria identità di persona, a proposito della nuova polemica del fatto che abbia rinunciato alla cattedra dopo, diciamo, gli attacchi di questi giorni. Giancarlo sulla pagina Facebook scrive: penso di sì che abbia fatto bene a rinunciare alla cattedra, c'è un limite alla decenza. Perla scrive: anch'io penso che abbia fatto bene. Pagina Facebook di Effetto Notte, per i messaggi 349-238-6666. Tra poco, dopo la pausa, parleremo con l'avvocato di Giovanni Scattone. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Scattone dimostra di aver avuto più dignità di chi condannato ci rappresenta in Senato alla Camera, scrive Antonio al 349-238-6666. Poi gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Roberta Giordano sempre con voi, con me, come vedete, il vostro ascolto e i vostri messaggi. Arrivano appunto opinioni molto differenti, opposte sulla nuova polemica relativa a Giovanni Scattone. Vincenzo per esempio scrive sulla pagina Facebook: non si doveva far arrivare questo signore all'assegnazione della cattedra, si sarebbe evitato di ringraziarlo per la rinuncia. E poi un altro messaggio: Scattone deve lasciare la cattedra per la sete di vendetta, scrive questo Matteo da Bassano del Grappa, per la sete di vendetta di un popolo. Lo scopo della pena non è forse la riabilitazione, tanto più che si trattava di un delitto colposo, un colpo di pistola è partito accidentalmente, gli errori possono succedere umano, ma chi siamo noi per giudicare? Chi non ha fatto errori e può giudicare Scattone? Questi sono alcuni dei messaggi. Voi continuate intanto, tra pochissimo parleremo proprio di questo, ma vi ricordo, se avete acceso la radio soltanto ora anziché alle 21, quali sono le notizie principali della giornata. L'emergenza migranti, afflusso record di migranti, di profughi, e per questo l'Austria blocca treni dall'Ungheria. Domani vertice con i paesi dell'est, gli Stati Uniti pronti ad accogliere 10.000 siriani nel 2016. È notizia di poco fa che ci sono decine di migranti che affollano la stazione di Budapest. E poi in Siria, forze militari russe presenti nel paese, non siamo qui per combattere, precisano da Mosca, ma gli Stati Uniti sono preoccupati. Marta Russo, Scattone rinuncia alla cattedra, ne parleremo tra pochi istanti. Il caso Cucchi, un carabiniere indagato per la morte del giovane geometra. Tossicodipendenze, secondo la ricerca presentata in Parlamento, sono quasi 4 milioni gli italiani che consumano droga. Scoperta in Sudafrica, trovati i resti di una specie umana sconosciuta, l'Homo naledi. Lutto nel cinema, addio a Franco Interlenghi, è morto 84 anni, protagonista del neorealismo da Sciuscià e Vitelloni, lavorò con Visconti e Antonioni. Quindi vi ricordate che martedì avevamo parlato delle polemiche suscitate dalla notizia che Giovanni Scattone, condannato a 5 anni e 4 mesi per l'omicidio della studentessa Marta Russo avvenuto nel 1997, pena che ha scontato, è risultato tra i docenti assunti grazie alla riforma della buona scuola varata dal governo. Scattone ha ottenuto una cattedra all'Istituto Professionale Luigi Einaudi di Roma per insegnare storia della filosofia, psicologia e scienza dell'educazione. E che cosa ha deciso dopo queste polemiche forti che ci sono state in questi giorni, anche lo stesso intervento della madre di Marta Russo, che si è detta addolorata, incredula, ha detto è una scelta assurda, ha deciso di rinunciare alla cattedra. Non è la prima volta, era successo anche nel 2011. La madre di Marta Russo oggi ha commentato: giustizia è fatta, sono contenta per gli studenti, non perché non debba lavorare, ha precisato, ma non può educare. Questo nella prendere la decisione di Scattone, il quale a proposito di questa rinuncia così l'ha motivata dicendo: se la coscienza mi dice di poter insegnare, la mancanza di serenità mi induce a rinunciare all'incarico. Ne parliamo con il suo avvocato Giancarlo Viglione, che è in collegamento, lo saluto e lo ringrazio. Buonasera Viglione. Quindi ha rinunciato, è la seconda volta mi pare, o una delle volte, era successo anche nel 2011. Sì, no? È successo nel 2011, anche se la situazione è un po' diversa perché si trattava di una supplenza. Senta, ma è una decisione irrevocabile questa? Io mi auguro di no, io mi auguro che sia irrevocabile. Ho tentato stamattina di convincerlo in 4 ore di colloquio, questo è il mio studio, ma non ci sono riuscito. Mi auguro che l'opinione pubblica ci riesca. Senta, sa che l'opinione pubblica è spaccata su questo sì. caso, no? Certo, ho ascoltato anche quello che lei... Alcuni dei messaggi, sì, ce ne sono messaggi. Molti altri. Senta, diceva per esempio l'ex presidente della Società Italiana di Psichiatria, qualche giorno fa qui a Fettonote, diceva il fatto è che, come sottolinea la madre di Marta Russo, diceva questo psichiatra, non ha mai chiesto perdono e questo denota una personalità narcisistica e quindi sicuramente non adatta a educare, non adatta poi a educare materie come psicologia e scienza dell'educazione. Allora, io penso che dobbiamo riportare il discorso su un binario di Stato di diritto e Stato civile. Una sentenza ritiene Scattone colpevole di omicidio colposo. La stessa sentenza ritiene che non vi sia la interdizione dei pubblici uffici e dunque lui possa lavorare al servizio della pubblica amministrazione. Tra questo l'insegnamento. Allora, noi dobbiamo metterci d'accordo. O le sentenze si rispettano, o le sentenze non si rispettano, o le sentenze si rispettano completamente, o non si rispettano. Scattone rispetta la sentenza, non la condivide, ritiene di essere innocente, ma la rispetta la sentenza e sconta la sua pena. Adesso dobbiamo capire il motivo per il quale quell'altra parte della sentenza non debba essere rispettata. Allora qui il punto non è, io non commento neanche le frasi che lei mi ha detto, perché il discorso è un altro, il discorso è, ma si rispetta tutto o solo una parte? Perché se apriamo la discussione su la parte della sentenza che gli consente di insegnare, non ponendo l'interdizione, beh, allora dovremmo aprire anche la parte della sentenza che lo dica è colpevole. E no. Allora Scattone non vuole aprire quella parte di sentenza. Avvocato Viglione, però in realtà la sentenza, la parte della sentenza che dice lei che non gli vieta. Dico i giudici, non noi. Ecco, no, appunto. Però questa parte è rispettata in realtà, perché da un punto di vista giuridico nessuno gli ha vietato di fare i concorsi, le graduatorie e di essere poi assunto. Sì. Quindi non è una questione giuridica di non rispetto della sentenza, è che c'è forse un sollevamento di reazioni che... Esatto, e beh certo, qui infatti noi non abbiamo impugnato un provvedimento del Ministero con il quale il Ministero diceva non può insegnare, giammai. Qui però Scattone si trova ad affrontare un tritacarne mediatico nel quale gli si dice, io non sapevo, non avevo avuto la possibilità di ascoltare la sua trasmissione qualche sera fa, ecco, ma se un docente ritiene di poter sostenere che non può educare, non può insegnare perché non ha chiesto scusa, penso che la risposta è insita in quello che lei già ha detto. Viglione, però le chiedo questa cosa, non è che per quello che è stato il suo passato, al di là che si ritenga innocente o meno Scattone, non ha forse sbagliato percorso professionale, cioè non poteva aspettarsi che sarebbero avvenute queste reazioni e quindi scegliere qualche altra strada, no? Ma quella era la sua strada, quello lui conosceva, quello lui sapeva fare, ma guardi, non solo quello lui sapeva fare, quello lui ha fatto per 10 anni. Avendo, stamattina mi diceva, uno degli unici momenti di sole in questi giorni di buio sono stati i messaggi dei miei ex allievi, i quali mi dicevano: professore, ma vada avanti, professore, ma non torni indietro, professore, non rinunci. Lui per 10 anni ha insegnato, senza polemiche, avendo uno splendido rapporto con gli allievi, con le famiglie degli allievi. Poi una mattina facciamo un cancan mediatico e ognuno di noi discetta. Allora qui non si tratta di andare a rimbeccare, tutte le opinioni sono tutte quante rispettabili, per carità, non si tratta di andare a ribattere questo o quel commento, si tratta di dire che noi siamo in un paese civile, in uno stato di diritto dove le sentenze vanno rispettate. Allora può qualcuno pensare che una parte della sentenza non si debba rispettare perché non è giusto che lui educhi? Ma va detto la sentenza. Se mettiamo in discussione quello, dobbiamo anche mettere in discussione che lui è colpevole. Biglione, è stato chiarissimo, adesso aspettiamo di vedere appunto se davvero la decisione è irrevocabile o che cosa succederà. E magari ci risentiamo. La ringrazio. Grazie, avvocato Biglione. Buona serata. Grazie, buona serata. Viabilità. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Fra le notizie più importanti, Giovanni Scattone sul caso Marta Russo, che decide dopo le polemiche di rinunciare alla cattedra che è stata assegnata, ne abbiamo appena parlato. L'emergenza migranti, con domani si attende questo vertice dei paesi dell'est Europa, e l'Austria intanto che blocca i treni dall'Ungheria, e poi Mosca che manda armi e istruttori ad Assad in Siria, cosa che fa molto preoccupare la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti. E poi scoperto in Africa l'Homo Naledi, un nuovo antenato dell'uomo, di cui parleremo tra poco. Questa eccezionale scoperta fatta in Sudafrica, ormai con i nostri antenati veramente non si capisce più niente, questo Homo Naledi, una specie umana finora sconosciuta, alto più o meno 1,50 m, pesava 45 kg, i ricercatori, tra cui un italiano, dicono che ha tratti moderni, alcuni invece molti primitivi, è un nostro lontano cugino identificato grazie a 1550 resti. Ne parliamo col professor Lorenzo Ruck, ordinario di paleontologia all'Università di Firenze e presidente della Società Paleontologica Italiana. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Che ne dice di questa scoperta? Io devo dire che guardandolo ho pensato, non mi assomiglia ben niente. Non so cosa ha pensato lei, professore. Comunque è un nostro antenato. Non l'ho pensato, ma concordo con la sua osservazione. Sì. Una scoperta importante per vari motivi. Un po' come molte di queste scoperte, ha dei lati, diciamo, interessanti e dei lati ancora che lasciano un po' di dubbi. Indubbiamente il numero di reperti recuperati in questa grotta è impressionante, è quasi unico nel panorama della paleoantropologia, per cui, diciamo, ci sono le basi morfologiche del record per definire con precisione come era la morfologia, come erano le fattezze di questo nostro antenato. Il fatto che non si sappia l'età, cioè a quanti quanto tempo fa risalga, in effetti hanno detto che i ricercatori questo lascia un po' di dubbi, proprio per la particolarità di questa forma, che per certi aspetti è molto evoluta, molto derivata, con questo piede come il nostro. Per altri è molto primitiva, con questa capacità cranica molto bassa, questa morfologia di parti del tronco e delle braccia molto, molto primitive. Quindi, professore, concludendo, che cosa possiamo dire di questa scoperta? Aspettiamo che vi siano ulteriori accertamenti anche per capire come collocarlo nelle epoche passate? Sì, sicuramente è una scoperta importante e sarà un riferimento negli studi dei nostri antenati. Ancora, a mio avviso, mancano molte informazioni preziose che consentono di inquadrarlo al meglio nel panorama della nostra storia evolutiva. Grazie, professor Lorenzo Ruck. La ringrazio. Buone grazie scoperte. A voi. Grazie, professore. Andiamo invece a scoprire cosa si cucina a Venezia, la mostra del cinema con la nostra Marta Cagnola. Marta? Ciao Roberta, sì, per me è quasi ora di cena, quindi direi che la citazione è perfetta. Allora, torniamo alla puntata precedente. Ci eravamo lasciate ieri sera parlando di musica, sì. Perché tra i concorsi che noi stiamo seguendo con grandissima passione, noi di Radio 24, c'è il Soundtrack Stars Awards, perché da appassionata di musica oltre che di cinema, insomma, ci tengo molto alle colonne sonore. Sì. Allora, domani la premiazione alle 3, sapremo chi ha vinto domani alle 3, però intanto abbiamo chiesto come stanno andando i lavori della giuria a uno dei giurati più simpatici, che è il professor Gianni Canova. Sentiamo un po' cosa gli sta piacendo, come sta lavorando la giuria. Sentiamo. Devo dire che i film di Venezia di quest'anno sono molto interessanti per quanto riguarda la colonna sonora. Faccio un solo esempio: un film come quello di Marco Bellocchio, Sangue del mio sangue, nessun repertorio visivo, ma c'è un grande repertorio sonoro nel film, che è più legato al guardare, dando un risultato, io trovo, di grande interesse anche emotivo ed emozionale. Poi ci sono alcune grandi partiture, insomma, per esempio a me è piaciuta molto quella di Equals, il film Apparat, è uno dei più grossi nomi della musica elettronica contemporanea. Quello è un esempio, secondo me, di partitura che crea un mondo molto simile a quello di Gattaca, per dare un'idea a chi ci ascolta, dove il minimalismo della partitura elettronica di Apparat riesce davvero ad essere l'unico elemento emozionale che entra dentro questo mondo algido. Roberta, per continuare a parlare di musica, ti dico semplicemente che domani sera sarà la sera di Vasco Rossi, che arriva alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi già mi immagino il delirio delle fan, lo seguiremo. C'è un docufilm su di lui, mi sembra. Sì, il Decalogo di Vasco l'abbiamo visto oggi, un film che però vedranno tutti presto in televisione, perché a fine settembre sarà su Rai 3, dopo la prima puntata di Che Tempo Che Fa, quindi lo vedranno tutti molto presto. Domani anche il giorno dell'ultimo italiano in concorso, Per amor vostro, di Giuseppe Gaudino, e poi domani, Al di là del cinema, partirà qui dal Lido la marcia a piedi scalzi, quindi insomma la cronaca che entra anche per Venezia, i migranti, 72. Questa cosa. Senti, sì, Marta, sì. Abbiamo ancora 30 secondi per questo Remember, che è in odore di leone, qualcuno dice? Guarda, io non sono una dei fan del film, ho trovato bellissima l'interpretazione di Christopher Plummer, la storia molto intensa, la realizzazione un po' meno, uno di quei film che hanno diviso. Quindi non sarà rimemberato anche se si intitola Remember, insomma, ricordo. Guarda, Christopher Plummer sicuramente sì, lui bravissimo, il film meno bravo di lui, ma lui straordinario. Marta Cagnola, allora domani. Ciao Marta, a domani. E noi a tra poco a 22.